spaziale. Indovina la parola nascosta per fuggire dal buco nero. Capiami come fantasmi accarezzano te, ti inquieta notte, e il mio respiro è profondo. È freddo il letto, il balcone una fuga, dalla mia cella di cemento in strada passeggiano ragazze, io osservo le movenze, i segni. Ne rapirei una qualunque per farla prigioniera tra queste mura. E non darla di odori e carezze. Inondarla di odori e carezze, morsi e sudore ancora carezze. Inondarla di odori e carezze, morsi e sudore ancora carezze. Ma sono solo sogni dettati dall'ora e dall'assenza, ma sono solo sogni dettati dall'ora e dall'assenza. Dall'alto di un balcone come un imperatore indisuso. Passerò così la notte, tu passerò così la notte, notte tu.